chiamano terra, questa luna del giorno, quando è notte che sale come una nave dal fondo, e tutti i naufraghi legati ai semafori pregavano il cielo di essere salvati, salvati. E la chiamano pace, quest'aria sfondata, dove si respira una fine obbligata. E tutte le donne dai roghi di schermi urlarono ai ciechi di restare fermi, fermi. E la chiamano estate, quest'inverno privato. Chi si allaccia le scarpe può ormai dirsi perduto. Tra ministri e giornali è volata la mosca, e chi si grattava intonava la tosca, la tosca. Chiamano forma, questa morte per acqua, di cui si parlò tanto, come di un'altra galassia. E tutti i soldati rimasero in piedi sopra le torri dei desideri, dei desideri. Chiamano terra, questa luna del giorno, quando venne sera si vide in un sogno, e tutte le radio ronzavano in coro che la vita rideva, spariva nell'oro, nell'oro.